Costringimi a ricordar la storia, costringimi nell'intento d'ascoltare il silenzio che negli anni mi ha assopito. È meglio constatare che son vivo che una congiunzione astrale mi ha ferito. E dico sempre quello, ma non dico che ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora. Ancora. Io chiudo gli occhi e non vedo l'ora né di partire un giorno o d'arrivare, ma più semplicemente devi evitare di star male. Ma è meglio ringraziare che ho vissuto, che il mio segno zodiacale è un doppiato doppato. Lo dico, me ne vanto, ma non dico che ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ancora. Ancora. E tutti dicono, la tua sensibilità. E io dico, forse non è più qua. E tutti dicono, la tua sensibilità. E io dico, forse è scappata già. Costringimi a partire come un treno, con l'aria molle ma non sono scemo. È tutto un gioco da ripartire da zero, ma è meglio valutare la sostanza. Chiusi te 2 ore in una stanza, io penso sempre a quello ma non dico che ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te.